cartellone di Elisabetta Fiorito. I greci, condotti da Agamennone e Achille, affrontano i troiani, guidati da Ettore, figlio di Priamo. Canta, mio diva, del pelì di Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. L'Iliade è un grande classico. Con questo classico di Omero iniziamo oggi la puntata di Cartellone. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, perché debutta giovedì 12 novembre in Prima Nazionale a Villa Campolieto di Ercolano a Napoli l'Iliade di Omero, con la regia di Prospero Bentivenga e l'adattamento del testo. E nel ruolo di Ecuba ci sarà Agnese Nano e poi nel ruolo di Edo Francesco Siciliano. Io do il buongiorno a tutti e tre, soprattutto a Prospero Bentivenga, che ci parla anche un pochino che cosa avete fatto, una nuova traduzione dell'Iliade. Buongiorno a tutti, è una riscrittura dell'Iliade che abbiamo utilizzato invece per la traduzione di Daniele Ventre, che ha scritto con noi e con me e Carmen Luongo appunto l'adattamento teatrale. Questa traduzione uscirà nelle librerie penso agli inizi dell'anno prossimo. 12 personaggi, 10 attori in scena, ci sono anche lamentazioni in forma di canto. È un modo per riscoprire un grande classico, quello dell'Iliade, ma ci può insegnare oggi Omero? Tantissimo. Quello che io ho letto era un grande grido contro la guerra. Omero ha scritto il primo testo della nostra letteratura, soprattutto per noi occidentali, ed era appunto un grido contro la guerra. Io ne ho fatto una lettura, diciamo, pacifista del lavoro, insomma. Omero ci ha raccontato la prima guerra fra Occidente e Oriente, e il pretesto di Elena non è altro che, può essere simile al pretesto, facendo un'ardita similitudine alle armi distruttive di Saddam Hussein nel caso di Bush. Insomma, Elena era solo un pretesto, insomma, questo rapimento di Elena. Insomma, in questo momento che il presidente Obama vuole chiudere Guantanamo, questa visione dell'Iliade ci può essere molto utile per capire anche il nostro mondo. Agnese Nano, Ecuba, qual è la difficoltà di questo personaggio? La difficoltà è anche la sua bellezza, perché è una moglie di un re in guerra, quindi in qualche modo è anche lei produce carne da macello. È una madre che assiste, quindi da una parte chiaramente appoggia la guerra di suo marito e nei momenti di vittoria esulta per la vittoria della sua parte, della parte troiana. Contemporaneamente però lei è madre e quindi assiste dalle mura alla morte dei propri figli. Quindi è una, e contemporaneamente è bello, perché in questa all'inizio, pensando, Mimmo Calopresti interpreta sia il ruolo di Priamo che quello di Agamennone. E che poi doveva essere con noi, lo diciamo, sì. Doveva essere con noi, purtroppo sì. Non è potuto essere con noi, quindi abbiamo come interprete principale un esordio da cinematografico, diciamo, sì. Dal cinema al teatro di Mimmo, sì. Calopresti. E pensando al ruolo di Mimmo, che mi chiedevo, è complicatissimo, perché lui è nemico di se stesso, in realtà tutti i personaggi in qualche modo, cioè io almeno Ecuba la sento completamente nemica di se stessa, perché da una parte partecipa a questa guerra, contemporaneamente ne soffre e da un altro punto di vista lei produce guerra all'interno della casa, perché c'è contemporaneamente una guerra di donne all'interno di questo palazzo, per cui è una madre, una moglie ed è una suocera che odia Elena, additando lei come causa di tutti quanti i mali di Troia. E come personaggio femminile ha fatto molto riflettere sulla difficoltà anche proprio tutta femminile di amare le donne. Beh, un po' sempre misogina, la suocera è la misoginia in persona, no? Riversa, sì. Poi è un personaggio poi molto, molto complesso e contemporaneamente anche una madre molto calda nel rapporto, per esempio, con Cassandra. Quindi insomma, un bellissimo ruolo, quindi ringrazio Prost, ringrazio Carmen Luongo che mi hanno scelta per interpretarlo. Sono contenta. Francesco Siciliano, Edo, allora, quali sono anche qui le difficoltà del personaggio e qual è la bellezza? Beh, la bellezza è che la Edo è Omero, cioè che racconta in prima persona la vicenda. E per tornare alla vostra domanda iniziale, Giacomo Leopardi scrive nello Zibaldone che dall'Ilia dell'Odissea non è mai stato scritto niente di nuovo, perché lì dentro c'è già tutto. C'è la passione, c'è l'amore, c'è la guerra, c'è il conflitto, ci sono tutte le cose che sono state raccontate e scritte nella storia della letteratura. E probabilmente è vero, nel senso che è la nostra origine culturale in maniera così profonda e netta. A guardare quelle pagine che sono arrivate così a noi dopo migliaia e migliaia di anni, c'è tutto, c'è anche la forza ironica che la distanza storica ci consente nei confronti di quei versi. Ma noi poi ci ricordiamo Omero, no? Ci abbiamo sempre scolpito noi italiani a proposito di un altro poeta romantico. Il faccione barbuto, no, statua di Fidia. No, anche la descrizione che ne fa Foscolo nei Sepolcri, no? Sì. Quando, lì ci ricordiamo questo vecchio che praticamente sta cercando le rovine spazzate anche quando non ci saranno più, insomma. Quella è un'idea letteraria, poi Omero non sappiamo neanche realmente se è esistito come persona oppure se è la somma di tradizioni popolari arcaiche, non è importante, no, poi in non fondo è importante. Cioè, Omero è il racconto, quindi in fondo il racconto lo può raccontare un signore barbuto o Francesco Siciliano che si è fatto crescere la barba per l'occasione. Allora, noi ricordiamo che quindi fino a domenica Villa Campolieto di Ercolano, Iliade di Omero con la regia di Prospero Bentivenga. Ricordiamo anche che ci sarà Agnese Nano Ecuba, Francesco Siciliano nel ruolo di Omero. E poi ricordiamo anche che Mimmo Calopresti, sì, proprio il regista, sarà al suo debutto come attore di teatro nel ruolo di Agamennone e Priamo. E sentiamo adesso invece una piccola lamentazione, The End di Nico, che proprio va in scena in questa versione dell'Iliade. The end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. Come get around, people, wherever you roam, and admit that waters around you have grown. Nanda dice America, metà anni 50. Lì in quel momento nascono i giovani. Prima non c'erano, veramente. O se c'erano nessuno se li filava. Contavano gli anziani, i saggi, solo i vecchi avevano voce in capitolo. And I said it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Nanda dice America, metà anni 50. Lì e in quel momento nascono i giovani. I giovani protagonisti, i giovani che contano. Ma perché contano? Perché bevono Coca-Cola e ascoltano i dischi, ma prima di ascoltarli li comprano. Non come adesso che tutti li ascoltano ma non li compra più nessuno. I giovani nascono per consumare, è lì in quel momento che siamo diventati consumatori. Prima eravamo uomini. Then you better start swimming, I'll sink like a stone. E questa magnifica interpretazione di Giulio Casale, che è in scena in Prima Nazionale il 16 novembre al Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo, la canzone di Nanda, dai diari di una grandissima, di Fernanda Pivano, ricordiamo, colei che ha portato la Beat Generation in Italia, colei che ha tradotto l'antologia di Spoon River, colei che è stata amica di Ferlinghetti, di Hemingway e quant'altro, una regia di Gabriele Vacis con immagini inedite anche in anteprima. Buongiorno Giulio. Buongiorno a tutti. Insomma, ci si confronta con un mostro sacro, come fai in scena? Beh, lo faccio attraverso la forma del teatro canzone. Non è stato facile, quindi alternando le parti cantate alle parti recitate, quindi la narrazione al canto. Non è stato facile mettere insieme questo spettacolo perché la vicenda di Fernanda Pivano in pratica attraversa l'intero Novecento e oltre, per cui di materiale ce n'era fin troppo, abbiamo dovuto fare una grande selezione, per così dire. E il testo è tuo? Sì, io sono autore di tutto il copione e poi c'è un grande contributo di regia da parte di Gabriele Vacis. Quanto ti ha colpito la scomparsa recentissima di Fernanda Pivano? Ma molto, perché ci aveva abituato a grandissimi recuperi, per cui ogni volta che stava poco bene ci sorprendeva tutti, insomma, i giornalisti avevano sempre pronto un coccodrillo da ormai 15-20 anni, ecco, per cui invece ogni volta si dimostrava più forte e più curiosa della vita di tanti altri magari molto più giovani. Devo dire che poi appunto per me è stato particolarmente doloroso, perché io ho avuto la fortuna negli ultimi 10 anni di frequentarla, di avere la possibilità proprio di dialogare tanto con lei, e quindi naturalmente questo d'ora in poi mi mancherà. Lo spettacolo però non nasce come un omaggio, tant'è vero che era già scritto nei primi mesi del 2009, e anzi era previsto che Nanda fosse in sala a Milano, al Piccolo Teatro. Naturalmente ci sarà lo stesso, ma in modo un po' più invisibile, ecco. Sentiamo un altro assaggio di questo spettacolo. So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Nanda dice che cercavano una realtà autonoma, del tutto sganciata dalla fallimentare tradizione, dai pregiudizi, da ogni discriminazione. Walt Whitman, Dylan Thomas, Gioventù bruciata, Fronte del Porto, il selvaggio, il gigante, James Dean e i suoi sguardi su un mondo misterioso, spaventoso, un mondo nato dalla bomba. Hiroshima, Nagasaki, la Corea, il Vietnam, la bomba atomica. Sì, la bomba atomica. La bomba atomica è la società, l'establishment è l'ordigno che disintegra la persona. Nanda dice che bisognava liberarsi in tutti i sensi, con ogni mezzo, alcol e droghe comprese, liberarsi dall'angoscia, dalle imposizioni e dalle privazioni. Ma dice Nanda, con la non violenza, con amore. Come senators, congressmen, please hit the... vedo che Giulio, insomma, le canzoni di Bob Dylan, a parte questo cameo di American Pie, insomma, prima Times They Are Changing, poi di nuovo Bob Dylan, insomma, è lui l'autore al quale ti sei ispirato per le musiche? Ma sì, in realtà poi ci sono anche 3 canzoni mie, c'è nuove, c'è una canzone di Tenku, una di De André, c'è addirittura Braille, Woody Guthrie, però Dylan è stato talmente importante, non solo per la Nanda, che per Fernanda Pivano, che lo adorava a livello proprio poetico, ma proprio importante per quegli anni lì, in quel momento storico è stato decisivo. Lo spettacolo appunto ritorna più volte perché sembrava riassumere musicalmente le speranze, i sogni, i desideri di cambiamento di un'intera generazione, ma a livello mondiale addirittura, non solo americano. Quanto è rimasto del messaggio della Beat Generation oggi? Ma guarda, in realtà io, se ho un'urgenza rispetto a questo spettacolo, è proprio il fatto che oggi sembrano trionfare esattamente i disvalori, no? Quelli che per la Beat Generation erano completamente disvalori, cioè la violenza, l'arroganza, la prepotenza, anche a livello individuale, non solo a livello macro politico. Il culto della forza, il culto del successo per il successo, il culto del potere per il potere, tutte cose che oggi sembrano diventate inevitabilmente conformistiche, e invece all'epoca un'intera generazione aveva il senso, o perlomeno una larga parte di quella generazione aveva il senso che proprio quelle erano le cose da dimenticare, da superare una volta per tutte. E quindi in realtà forse il mio senso di intervento sull'oggi è proprio questo, cioè ritornare a risentire certe cose, non certo per nostalgia, niente può tornare uguale, niente è giusto che torni uguale, ma insomma mettere un po' di discussione l'oggi attraverso le grandi voci, le grandi pagine di poeti, artisti, letterati, non solo della Big Generation, perché poi lo spettacolo abbraccia un periodo molto più ampio di tempo, però ecco, spero di aver risposto alla domanda. Assolutamente sì, ricordiamo la canzone di Nanda, di e con Giulio Casale, dai diari della grandissima Fernanda Pivano, regia di Gabriele Vacis, dal 16 novembre al 6 dicembre al Teatro Strehler, al Piccolo di Milano. Grazie Giulio. Grazie a voi, è stato un piacere. Cosa è successo? Oh, niente, niente. Siamo stati lì fino alla chiusura del bar e poi... Io sono uscita fuori di testa! Abbiamo finito per farlo sul parcheggio del cemento dietro la discarica! Non male, no? È stata la migliore scopata della mia vita! Non riuscirò più a sentire l'odore dell'immondizia senza pensarci! Cinque donne con lo stesso vestito. Ci trasferiamo adesso a Roma, al Teatro Testaccio, dove fino al 29 novembre è in scena questa commedia di Alan Ball. Regia di Eleonora Pippo. Ci sono tutte quante attrici in scena, tranne un uomo, e tutte queste attrici fanno un ruolo ben preciso. C'è la cristiana, la sorella della sposa, la cinica, la disperata e la lesbica. E poi c'è anche il ragazzo Fabio Mascagni. Buongiorno Eleonora Pippo, buongiorno Fabio Mascagni. Ciao, buongiorno. Ciao, ben trovati. Allora, Eleonora Pippo, regista ma anche interprete, è uno sguardo dall'autore, premio Oscar di American Beauty, Six Feet Under, True Blood, è uno sguardo, diciamo, a che cosa succede nell'universo femminile, ci azzecca? Sì, ci azzecca e secondo me ci mette anche un bel tocco dark, nel senso che è una commedia, però per quelli che conoscono l'autore sapranno riconoscere, secondo me, in questo lavoro la sua cifra, che è sempre molto originale rispetto a una scrittura anche molto divertente, perché è molto cinico e politicamente scorretto. E questo taglio è estremamente divertente, perché proprio va a toccare dei tasti decisamente originali, che ognuno sa che ci sono, ma il fatto di parlarne apertamente muove delle cose nuove. Fabio Mascagni, che cosa vuol dire stare in scena con una, due, tre, quattro, cinque donne, ovviamente, sì, e più la regista, che è anche un interprete, insomma, quindi sono cinque più una, sei, quasi sei, va. Ma no, ma mi coccolano. Sono molto fortunato perché sono sei interpreti bravissime, cinque interpreti bravissime, Eleonora è regista e interprete, e quindi io seguo molto, quasi tutte le sere, una parte dello spettacolo da fuori e mi diverto tutte le sere. E poi insomma c'è un buon lavoro di squadra, la commedia è affiatata e per me è solo che è un lusso stare con loro. Allora facciamo sentire un altro pezzettino, poi Fabio ci dirai qual è il tuo ruolo. Perda il suo fascino e lo perderà. Sì. È sicuro che capiterà. Sì. Finirà come uno di quegli uomini con la faccia a punta, tipica trasformazione dei tipi veramente belli. Sì, avrà uno di quei grossi nasi rossi da quanto avrà bevuto durante tutta la sua vita, e la pancia da birra. E perderà i capelli. Indosserà bermuda e mocassini. Bermuda e mocassini e calzettini corti. E sentiamo insomma una riflessione anche sugli uomini. Fabio, allora, qual è il tuo ruolo in questa commedia? In questa commedia vengono citati vari stereotipi maschili e ad un certo punto nel finale c'è, diciamo, quasi un'intrusione di un uomo che però si rivela in realtà non così, così grottesca, così come erano stati descritti gli uomini all'inizio. Diciamo che è un uomo che mette un po' in crisi la cinica, che è una persona ormai un po' disillusa, che ormai non crede più all'amore, e quindi si apre un piccolo varco di... un marco simpatico, di un reale scambio, una possibile relazione ma intesa come abbattimento dei luoghi comuni. E la cinica Eleonora Pippo è proprio cinica? È proprio cinica? Sì. E la cristiana, sì, è proprio cristiana? Ma tipo cristiana, sì, poi nel senso di Alan Ball, che è sicuramente un autore americano, diciamo una cristiana evangelica, quindi probabilmente un po' stereotipata come i grandi predicatori americani, che sembra che vendano Gesù come le pentole. Beh, sì, diciamo. diciamo di sì. C'è questo aspetto esagerato e grottesco, però nel tentativo che io ho fatto c'è stato quello di dare una possibilità di essere amate a tutti i personaggi. La cristiana effettivamente è scritta come un personaggio bigotto, una fondamentalista, ecco, non islamica ma cattolica, però ho cercato di dare anche a lei il suo le sue ragioni, come insomma tutte le persone hanno. Però è decisamente un personaggio divertente. Ricordiamo allora, fino al 29 novembre al Teatro Testaccio, 5 donne con lo stesso vestito di Alan Ball, l'autore premio Oscar di American Beauty, Six Feet Under e True Blood. Regia di Eleonora Pippo, e ricordiamo che in scena ci sono 5 attrici e un attore, Fabio Mascagni. Insomma, un modo per riflettere sulla condizione femminile in America e anche in Italia. Una buona riuscita della monta deve infondere all'uomo sicurezza in se stesso. Se tu lo fai sentire al posto giusto, se tu lo fai sentire amato, accudito. Teatro cucina, intrattenimento conviviale in 5 portate e 2 atti. Insomma, uno spettacolo un po' sui generis, che è allo spazio Alchimia in via Pienza 11 a Milano. Ma di che cosa si tratta? Perché insomma è qualcosa di particolare, come abbiamo sentito, si cucina sul palcoscenico. Valentina Infuso, che cosa fate in questo spettacolo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, è uno spettacolo molto particolare per soli 30 spettatori a replica, che in pratica mangiano quello che gli attori preparano in scena e quello che viene costruito nell'ambito della drammaturgia. E in pratica il cibo serve agli attori per completare il processo di creazione delle emozioni, e quindi l'emozione arriva al pubblico in tutto e per tutto nel momento in cui assimila il cibo. Quindi, per esempio, se l'attore ricrea una dimensione nostalgica di ricordi, eccetera, dal momento in cui il piatto che l'attore ha utilizzato per creare questa atmosfera viene assaggiato dal pubblico, esce la lacrima dagli occhi del pubblico. Questo è un po' in sintesi quello che abbiamo voluto creare e quello che avviene comunque ogni sera durante questo spettacolo. Allora, uno spettacolo scritto da te e da Elisabetta Faleni, che è anche la regista. Poi abbiamo in scena Laura Gamucci, Corinna Gustoni, Valentina Fogliani, Valentino Infuso, che sei tu. Quindi quante persone sono sul palco? Siamo in 4, perché la Gustoni si alterna alla Gamucci, e poi c'è un'altra carrettata di persone dietro per la preparazione di tutto. Insomma, fate come la prova del cuoco, ecco, fate come la prova del cuoco, che fanno finta di cucinare, però in realtà no. C'è quella bellissima fotografia, no? Poi dopo 2 ore, zac, miracolosamente appare il piatto, no? No, assolutamente no. Proprio il principio dello spettacolo sta di non dare nulla per finto. Anzi, la presenza del cibo aggiunge verità e materialità e concretezza alla sfera emotiva e poetica dello spettacolo. Alcune cose sono preparate prima, ovviamente, perché si tratta di calibrare i tempi culinari con quelli teatrali, ma non viene creata nessuna illusione di tipo appunto alimentare a livello televisivo, insomma. Vabbè, sentiamo un attimo come va sul palcoscenico, perché noi veniamo a spiare da cartellone. Aggiungendo un po' di sale. Se il momento era insipido, un po' di zucchero, se era triste, un po' di aspro per risvegliarci. Una ricetta, Valentino, non ce la dai, eh? Allora, le ricette sono depositate alla SIAE, quindi sono tutelate dal diritto d'autore. Oh, scherzo. No, è che il gioco... Valla a dire a Vissani. Diciamo che noi preferiamo non svelare le portate, perché fa parte del gioco scenico scoprire al momento quello che succede, proprio perché non è una semplice cena, ma gli ingredienti, gli alimenti sono al servizio dell'emozione creata dagli attori. quindi si crea questa sorta di complicità con il pubblico, per cui è più bello scoprire lì al momento. Allora facciamo così, Valentino, a chiunque vada a vedere al Teatro in Cucina, allo Spazio Alchimia in via Pienza 11 a Milano, il Teatro sì, Cucina, e non sia soddisfatto, può scriverci a cartellone oppure... assolutamente sì. Anzi, io la metto come sfida. Certo, che... alla luce di quasi 200 repliche possiamo stare tranquilli. La soddisfazione è totale. Perfetto, e di svelare se ci sta qualche trucco dietro le quinte. Allora, stiamo ovviamente scherzando, ricordiamo, allo Spazio Alchimia Lab a Milano fino al 28 novembre alle 21 ogni sera, teatro cucina, intrattenimento conviviale in 5 portate, 2 atti, con Valentino Infuso e tanti altri protagonisti. Ciao Valentino. Grazie. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.teatroinpolvere.it. E la tromba che sentite è quella di Terence Blanchard, che sarà ospite al Teatro 2 di Parma domani alle 20:30 per Parma Jazz Frontiere, una rassegna che si svolge ogni weekend fino al 6 dicembre. Un impegno molto molto gravoso per Roberto Bonati, compositore nonché contrabbasso e organizzatore di Parma Jazz Frontiere Festival. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti, ciao Elisabetta. Allora, un programma ricco ed intenso anche quest'anno, che si svolge in varie località di Parma. Sì, dunque si svolge in varie sedi, cioè a Teatro 2, ieri sera abbiamo avuto il concerto di Paolo Furesung con Bojan Zeta, stasera invece alla Casa della Musica avremo purtroppo un solo concerto, nel senso che si esibirà Silse Lendresen con Akon Kostad, mentre invece il duo che era previsto mio con Diana Torto, a causa di una brutta influenza che ho in questi giorni mi ha steso, è stato spostato al 21 di novembre, cioè al prossimo sabato. Quindi anche i jazzisti prendono l'influenza magari suina o H1N1, insomma anche non voi. Non guarda in faccia nessuno, mi sembra, ecco, nel senso che non si fa problemi di genere musicale. Senti, il momento invece clou è il mercoledì 2 dicembre, quando fate un concerto per Bhopal. Ci vuoi raccontare che cosa farete e perché avete scelto questa commemorazione? Intanto appunto voglio ricordare cosa è successo a Bhopal. Nel dicembre dell'84, in questa piccola cittadina del Madhya Pradesh, è avvenuto un gravissimo incidente chimico, nel senso che c'è stata una fuga di decine di tonnellate di una sostanza molto nociva che si chiama isocianato di metile, che era prodotto da una multinazionale americana che si chiama Union Carbide. E questa fuga uccise 2000 persone, diciamo, nella stessa notte, ma alcune fonti non ufficiali stimano addirittura 10.000 morti in quella notte, e comunque avvelenarono circa 600.000 persone. Il problema è che oggi, a 25 anni di distanza, la zona non è ancora stata bonificata, per cui il problema è che ogni volta che piove, diciamo, ci sono dei veleni che entrano nella falda acquifera e ancora oggi nascono delle persone deformi, perché è una specie di bomba atomica, insomma, che è esplosa in qualche modo, e ha lasciato anche nelle generazioni, diciamo, che hanno seguito, che sono nate dopo la tragedia, ha lasciato un segno molto molto duro. E quindi noi già 5 anni fa abbiamo fatto una giornata dedicata a questa cosa, e adesso quest'anno appunto c'è un circuito anche internazionale, adesso c'è stato questo autobus di Bhopal, praticamente è un autobus in inglese con sopra degli abitanti di Bhopal, che ha girato per l'Europa, è stato a Milano, è stato a Parma, è stato a Roma, e adesso avremo questo concerto. Noi abbiamo fatto, diciamo, questa giornata prevede due concerti uno al pomeriggio. Il titolo della giornata è Flames Not Flowers, cioè fiamme non fiori, che è uno slogan, diciamo, delle donne di Bhopal. Le donne di Bhopal scrivevano sui muri: siamo donne di Bhopal, siamo fiamme, non siamo fiori, no? E questo abbiamo, diciamo, messo in piedi una produzione importante con il Conservatorio di Parma e con la LAB, che è la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, e alcuni studenti del Conservatorio di Parma hanno scritto delle musiche e che verranno interpretate dall'orchestra, dall'ensemble jazz del Conservatorio, e degli studenti invece di questa Libera Accademia di Belle Arti di Brescia stanno preparando dei video, e quindi nella Chiesa del Carmine, nelle sere del pomeriggio, ci sarà questo spettacolo multimediale. Poi seguirà un catering di cucina indiana, e poi ci sarà un concerto del trio composto da Vincenzo Mingiardi, da Roberto Dani e da me, che Roberto già... Bonati. Esattamente. Allora, sì. Ricordiamo, sì. Parma Jazz Frontiere a piena voce, molti gli appuntamenti, abbiamo sentito questa sera alla Casa della Musica, poi domani Terence Blanchard, ma soprattutto il 2 dicembre, per quello che ci ha raccontato Roberto Bonati, per ricordare le vittime di Bhopal. Grazie Roberto, e soprattutto è un modo per fare della solidarietà e non dimenticare le tragedie il giorno dopo, come sempre succede. Grazie. Un tempo per me la scrittura era tutto. Soltanto scrivendo pensavo di comprendere il mondo. Oggi non mi interessano più le cose sognate. La nuova letteratura, ammesso che ce ne possa essere una, sarà una letteratura del lavoro, degli affari, del denaro. L'oggi non si sperimenta più nel teatro, ma nel mercato. Le trasformazioni quotidiane dei nostri giorni non sono più eccitanti di Shakespeare? L'arte è indifferente se è dell'est o dell'ovest. Si trova sempre nel posto sbagliato. E quello che sentite è un brano dello spettacolo Vite Nuove, che sta sempre a Testaccio a Roma, all'ex Mattatoio, dal 12 al 15 novembre, quindi fino a domenica, liberamente tratto dal romanzo di Ingo Schulz, regia di Massimo Belli. Abbiamo sentito un progetto teatrale che ruota attorno alla storia di Enrico Thürmer, drammaturgo della Germania dell'Est, che in seguito alla caduta del muro lascia il suo lavoro per dedicarsi ad un giornale fondato da un gruppo di intellettuali militanti. E l'incontro con Von Barista, simbolo dell'Occidente capitalista, lo porterà a rinnegare se stesso e abbandonare gli ideali che portarono alla caduta del muro. Sentiamo un altro brano. Se crede di farmi pena solo perché ha 16 anni e sua madre è una sbandata, si sbaglia di grosso. Le ho dato tutta me stessa, e lei come ha ricambiato il mio amore? Provocando risse tra esemplari sposati del vostro sesso. Tra chi? In questo momento si sente lesbica integralista. Si rifiuta di pronunciare la parola uomo. Vela! Me ne vado! Ricordiamo allora Vite Nuove fino al 15 novembre all'ex Mattatoio di Testaccio, Museo Macro Future. E adesso parliamo dell'ottava settimana della cultura d'impresa. Sì, proprio in occasione dell'ottava edizione della settimana della cultura d'impresa, promossa da Confindustria, Musea Impresa organizza una serie di eventi per leggere attraverso il patrimonio culturale delle imprese la storia del nostro paese. Sull'intero territorio nazionale ci saranno rassegne cinematografiche, workshop, laboratori creativi, visite guidate, convegni e dibattiti, che sottolineano proprio l'impegno delle imprese. La nostra Marta Cagnola ha sentito Magda Marsili, segretario generale di Musei Impresa. Il tema dell'edizione è creatività d'impresa e cultura dello sviluppo. Creatività che si riflette non solo sui prodotti delle imprese, ma anche nel cinema, nel teatro. Ci sono proprio le arti connesse alle imprese. Assolutamente sì, ma anche perché davvero, secondo me, negli ultimi anni in modo particolare lo è sempre stato. Diciamo che negli ultimi anni si sta raggiungendo questa consapevolezza, l'idea proprio che l'impresa sia cultura. Cioè, nel momento in cui questo binomio diventa così forte, si riesce ad associare in modo così diretto, a quel punto tante, come dire, materie anche che di fatto hanno sempre gravitato per definizione attorno all'impresa, perché comunque il design, comunque, cioè il Made in Italy lo conosciamo tutti, diventano, come dire, anche materie più facilmente associabili all'impresa anche per chi forse prima non lo faceva, non lo associava, ecco, in questo senso. Quindi, e questo è uno sforzo che gli imprenditori hanno fatto e che gli va riconosciuto loro, perché in realtà al di là di tutto si sono posti attraverso i musei e gli archivi come veri e propri attori culturali, cioè sono, hanno capito che potevano anche essere loro i protagonisti della cultura nel nostro paese. Il museo e l'archivio diventa un contenitore forte per trasmettere questi valori che di fatto gli imprenditori hanno sempre portato avanti e adesso hanno conservato e che quindi adesso possono anche divulgare. Ho visto che ci sono eventi per grandi, per piccoli, insomma c'è un po' di tutto, quindi sì. Chi è il vostro pubblico ideale? Il pubblico è sempre stato fino a qualche anno fa, ripeto, quello degli addetti ai lavori. Lo sforzo che stiamo facendo invece è proprio quello di allargare così la fascia d'utenza. In realtà lei tocca un discorso molto, come dire, importante per noi, perché che sono i bambini e la cultura d'impresa in Italia di fatto, perché probabilmente o meglio sicuramente in altri paesi europei la cultura d'impresa ha sui ragazzi un appeal diverso, cioè c'è una cultura per la cultura d'impresa molto diversa, cioè noi non siamo abituati a coinvolgere i ragazzi in iniziative di questo tipo, per cui niente di più facile, ma questo anche con gli adulti, che molti ragazzi non sappiano che cos'è la cultura d'impresa, cosa che in altri paesi europei non avviene, per cui il tentativo è proprio quello di coinvolgere anche i bambini da subito praticamente attraverso chiaramente eventi adatti, però per far capire proprio lo spirito che c'è dietro, i valori che ci sono dietro e riuscire a trasmetterli, perché questa è la cosa fondamentale. Perché dovete sapere che mio marito, che la faccia, mio marito, sta zicca. Pure femmine che baffa se marito, no? Beh, oddio, si ci sanno fa. E io modestamente saccio i fatti miei, eh? E poi Salvatore un bel giovane, con un bel paio di baffi, tesi, ma da vado lì. Te ne baffo pure Salvatore, che c'è? Ci conosciamo da giovani. Il nostro fu un incontro di primo pelo. E poi Salvatore, così simpatico, è un filosofo, un pensatore. La nostra è stata un'unione perfetta. E io fatico. E quello che sentite è Gennaro Cannavacciuolo in scena fino al 22 novembre al Teatro dell'Angelo di Roma con Le tre verità di Cesira, l'esilarante storia di una donna baffuta, una venditrice di limonata nei quartieri spagnoli che si racconta e racconta un po' la sua storia. Sentiamo un altro pezzettino dello spettacolo. Sant'Antonio e Padova, ma caccia capafora, sì o no? E questa è gratitudine per centinaia e centinaia di candele che d'aggio portate 93 per precisione. Faissa facciano sanno per tu Cecile, vabbè, Sant'Andò, 93, 94, ma tu è vita, sti scatenati come vanno fa. E quando ti muovo, quando sgrava a ca in nuovo mese, ma figlio mio, questi gli infedeli, e non mi ascolta, e parla un'altra lingua, ma statta zitta, parla un'altra lingua. Fomino! Posso che Luigi in terra e fa un miracolo, sino grazie santa sì. Ricordiamo allora Gennaro Cannavacciuolo nelle tre verità di Cesira in scena al Teatro dell'Angelo di Roma fino al 22 novembre. E adesso abbiamo una piccola serie di annunci come sempre su Cartelloni. E adesso andiamo a Padova, precisamente ai musei civici agli Eremitani, dove dal 19 novembre fino al 28 marzo 2010 ci sarà una mostra Caravaggio Lotto Ribera, 4 secoli di capolavori dalla Fondazione Longhi a Padova, organizzata dal Comune di Padova, l'Assessorato alla Cultura, Musei Civici e 24 ore Motta Cultura. Ricordiamo Caravaggio Lotto Ribera, 4 secoli di capolavori dalla collezione Longhi a Padova, un'avventura collezionistica, quella di Roberto Longhi, che è stata veramente mirabile, una delle personalità più importanti della storiografia artistica italiana del Novecento. Questa sera alle 20:30 alla Cattedrale di Molfetta ci sarà l'Inno al Sole, cantata di Vito Giuseppe Millico sull'ode di Giuseppe Saverio Poli. Interpreti l'orchestra da camera Nino Rota, Angela Nisi soprano, Anna Maria Bellocchio soprano e Antonio Magarelli, il direttore. Ricordiamo, Cattedrale di Molfetta, sabato 14 novembre, oggi alle ore 20:30. E oggi alle 17 i caffè cosmici. A che serve la macchina più grande del mondo? Insomma, che cosa serve quello che sta succedendo a Ginevra con il CERN? Una conversazione con Roberto Petronzio, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e Pietro Greco, giornalista scientifico, alla caffetteria Buca Bar al Palazzo delle Esposizioni, via Milano 15 a Roma. Ai nastri di partenza, Enologica 2009, il Salone del Vino e del Prodotto Tipico dell'Emilia-Romagna, un'edizione in programma al Centro Fieristico Provinciale di Faenza dal 20, 21, 22 novembre e si preannuncia un'edizione da record: 80 artigiani di prodotti tipici, 50 incontri tra degustazioni, seminari, laboratori, insomma, tutti quanti a Faenza il prossimo weekend. E anche per oggi abbiamo finito qui. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it e mi raccomando, mandateci i vostri file sonori degli spettacoli. Io vi auguro una buona giornata e un buon weekend a tutti.